Mix 24 di Giovanni Minoli. Italia sì, Italia no, Italia boom. Dopo ore e ore di Camera di Consiglio è arrivata la decisione. Puoi dir di sì, puoi dir di no. Via il ballottaggio, bocciate in parte le pluricandidature, restano premio di maggioranza e capilista bloccati. C'è un comando che ci aspetta. Mi sembra che la sentenza abbia adottato la soluzione del minimo indispensabile, piuttosto che quella del massimo possibile. Primario sì, primario dai. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate entro 20 giorni. Qualsiasi decisione della Corte sarebbe stata immediatamente applicabile, ma i giudici comunque lo scrivono chiaramente. La partita politica tocca ad altri, questo è solo il fisco d'inizio. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Abbiamo sentito ieri, è arrivata finalmente la decisione della Consulta sull'Italicum. Professor Sabino Cossese, giudice emerito della Corte Costituzionale, buongiorno, siamo buongiorno. Ancora qui a commentare. Ecco professore, una sentenza chiara secondo lei o no? Sì, cade il doppio voto, cioè il ballottaggio. Cade la scelta libera in caso di pluricandidature, resta il premio di maggioranza. Mi pare una decisione chiara ed equilibrata. Senta, nel suo ultimo libro che si intitola La democrazia e i suoi limiti, questa sentenza è uno di quei casi? Certo, perché la democrazia è il potere del popolo, ma anche l'esistenza di contropoteri. E quindi, perché anche il popolo può sbagliare, come è noto. Provo a sintetizzare, professore. Abbiamo un sistema proporzionale a un turno e con un premio. Mi sembra un po' il porcellum, o esagero nella sintesi? Forse un po' esagerato, perché sì. Il problema è che il premio probabilmente non scatterà, perché bisogna certo. Raggiungere il 40%, e in questo momento non c'è nessuna forza politica che ha un sicuro 40%. Ecco, però resta da decidere cosa fare col Senato, non si può andare con due sistemi diversi. Che legge si farà allora in base a questa sentenza sugli eletti a Palazzo Madama al Senato? Ma c'è proprio bisogno di dire che non si può andare con due sistemi così diversi. Il popolo ha voluto mantenere il bicameralismo. Perché esistono due camere? Proprio per esprimere opinioni e opzioni diverse. Ma come si armonizzano però al meglio questi due sistemi? Abbiamo visto che vogliono opinioni diverse, però anche rallentano quasi tutto. La tesi che ho appena espresso è proprio quella che viva la diversità, oppure se si debbono armonizzare fanno quello che fanno in Germania, fanno quello che in Germania chiamano Koalitionsvertrag, cioè un accordo di coalizione che è lungo 183 pagine. Cioè molto preciso. E ci si mette d'accordo. Ma il presidente Mattarella però ha detto si vota se le due leggi saranno armonizzate, no? Guardi, questo è certamente un punto di vista, ma le due leggi in questo momento sono parzialmente armonizzate, perché noi abbiamo due leggi, la Calderoli corretta dalla Corte Costituzionale e la legge Renzi corretta dalla Corte Costituzionale. Sono due leggi che hanno molte diversità, tra cui la diversità delle soglie di accesso, certo. Ma che hanno anche molti elementi in comune. Ma nello scenario politico attuale, però, l'ha detto anche lei prima, non è credibile un premio di maggioranza al 40%. Certo, e infatti secondo me gli scenari possibili sono due. Non si fa una nuova legge e quindi si va a votare con la Calderoli corretta e la Renzi corretta, oppure l'altro scenario, si fa la legge, ma questo vuol dire che si farà una legge proporzionale, cioè si ritorna al 1948. Più difficile forse, no? Questo. Molto difficile a mio modo di vedere, è la cosa più probabile che si resti con le leggi Calderoli, detta anche correntemente Porcellum, corretta dalla Corte, e dalla legge Renzi, detta correntemente Italicum, corretta dalla Corte. E quindi si fanno le coalizioni. E quindi si è costretti a mettersi d'accordo. Il problema fondamentale è se bisogna mettersi d'accordo prima o dopo. E il problema è che prima bisogna concorrere, poi bisogna mettersi d'accordo, perché nessuno avrà sicuramente la maggioranza, certo. E quindi nel concorrere non bisogna darsi molte pedate, esatto. Perché poi è difficile mettersi tornare d'accordo. Indietro. Ecco, professor Cassese, restano le pluricandidature, che cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che resta la possibilità di candidarsi in più collegi, ma non c'è l'opzione per chi si è candidato di scegliere il collegio che gli pare, bisogna ricorrere a un sorteggio. Però, insomma, tutto sommato è una legge che spinge a un governissimo, insomma. Questo semplificando è, molto. È una situazione complessiva che spinge ad essere ragionevoli e a pensare che la Germania, che è il paese più forte d'Europa, è governata ormai da parecchi decenni, sia pure con delle pause, da queste coalizioni. Quindi proviamo a metterci d'accordo. Con quello della Corte sono rilievi comunque fondamentali, cioè significa che la legge era fatta male, oppure siamo in un campo dell'opinabilità, insomma. Guardi, certamente nella legge c'è stata una svista, perché bisognava prevedere l'ipotesi che al ballottaggio andassero due forze politiche, una delle quali prendeva il 30, un altro il 20, prevaleva il 30, però il 30 è solamente il 30% dell'elettorato. E questa poi è l'osservazione di fondo che non viene dalla Corte, perché noi non sappiamo, certo, qual è l'osservazione della Corte, lo vedremo, ma veniva dalle corti che hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Però il rischio di instabilità è grande, perché con risultati differenti nelle due Camere, l'abbiamo già visto, si replica uno scenario di ingovernabilità. Esatto, noi corriamo dei grossi rischi di instabilità e l'unico modo per evitarli è di acquisire degli elementi di ragionevolezza e cercare di trovare delle basi di accordo. E quindi queste basi di accordo devono tener conto, e ritorniamo a Mattarella, che ha richiesto di armonizzare la legge. Sì. Senta, professore, un'ultima cosa. Si va al voto o no, secondo lei, subito? Subito, insomma, in fretta. Non credo proprio come previsione, e sì, quanto auspicio non lo auspico, perché penso che ci sia bisogno di una pausa di riflessione e penso che le norme vanno rispettate. Sarebbe il troppo presto. Il Parlamento attuale scade all'inizio dell'anno prossimo, sì, e si può benissimo aspettare fino all'anno prossimo. Grazie professor Cassese. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, tu Mario più o meno parlavi di che cosa, com'è che l'avevi chiamato questa cosa? Paludellum. Però non ho avuto il coraggio di chiederlo al professore, perché che ieri discutevamo cos'è un paludellum. Si parlava con degli amici, eccetera. Ma si vota subito o no, secondo te? Secondo me, allora, Renzi spinge per votare subito. Questo lo sappiamo, ma secondo te si vota subito o no? No, io sono molto d'accordo ovviamente con le cose sagge che ha detto il professore. E tutto va verso una dimensione di grossa coalizione italiana. L'unica variante, secondo me interessante da valutare, l'abbiamo detto altre volte, siamo stati i primi a dirlo, è il fatto che una maggioranza sovranista, quindi Lega Grillo, oggi è molto molto possibile in maniera... tu credi o non credo una maggioranza Lega Grillo? Assolutamente veramente. Sì, tu ci credi? Vabbè, senti, perché ci sono i numeri, sì, lo so, ma non basta, e gli elettori. Senti Pietrangelo, tu insomma Renzi stavolta però ha un po' vinto, sta succedendo quello che voleva lui, un pochino, ma non è possibile. Ribaltando tutto, se ci pensi, accanto a lui chi c'è? C'è Salvini, c'è Grillo, la Meloni. A questo punto, Giovanni, la Cozzaglia, dov'è? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, SMS. Sono stati da poco diffusi dal Ministero dell'Interno gli ultimi dati disponibili sul porto d'armi in Italia. Una vera e propria esplosione. Sono circa 1.300.000. In Italia un cittadino comune può ottenere una licenza per tre motivi: difesa personale, uso venatorio e uso sportivo. Le licenze per andare a caccia sono cresciute del 12,4%, quelle per uso sportivo addirittura del 18,5%. Al contrario, la difesa personale è in continuo calo da anni. Siamo diventati di colpo tutti cacciatori o è l'effetto delle vittorie alle Olimpiadi di Rio di Nicolò Campriani? La risposta è no, si tratta solo di un escamotage. Dal 2013, infatti, la normativa per il porto d'armi si è fatta più stringente. L'Italia non è l'America e l'uso delle armi è super controllato. Al di là di chi porta la divisa, sono pochissime le categorie che possono possedere e ancor meno portarsi in giro una pistola o un fucile. Questi permessi richiedono verifiche da ripetere ogni 6 anni. Non bisogna aver commesso reati gravi e sono necessari 2 certificati sanitari, del medico di famiglia e dell'ASL, che garantiscano l'equilibrio mentale. Milano e Torino sono le città più armate. Gli italiani continuano ad acquistare pistole e fucili, ma solo l'8% dichiara di farlo per difesa personale. Allora perché tanta voglia di armarsi? Edoardo Mori, ex magistrato, si occupa da oltre 40 anni di armi e di diritto delle armi. Ecco, dottor Mori, ci spiega la differenza rapidamente tra differenti licenze di difesa personale, caccia, uso sportivo? Sono 3 cose diverse? Sì, sì, assolutamente. Beh, la principale è ovviamente la licenza per caccia, sì, che in Italia ce ne sono circa 700.000. Sì. Poi vi sono le licenze per il tiro a volo, che ve ne sono circa 380.000, poi vi sono quelle per difesa personale, che sono poche, sono solo 22.000. 22.000 sono. 22.000, sì. Quindi, insomma, quindi è più facile prendere una licenza sportiva per tenere un'arma in casa? Sì, eh? Diciamo che tra licenza di caccia, licenza fucile, licenza per il tiro a volo non c'è nessuna differenza di pratiche, di costi, perché salvo che la licenza per il tiro a volo è gratuita. Ecco, la ma quella per il tiro a volo, sì, è esattamente la licenza di caccia gratuita. Ah, ho capito, e ma quindi, è quello ma la licenza per la difesa personale è più complicata da avere? No, è più complicata averla perché bisogna avere giustificati i motivi per difendersi. Quindi se uno non dimostra che porta valori, porta soldi, che è soggetto a sequestri, che è un grande industriale che può essere perseguitato, sì, sì, ho capito, non lo tiene assolutamente, per quello che sono così pochi. Ecco, dottor Mori, però il desiderio di avere un'arma è in aumento in Italia, avere un'arma in casa. Le statistiche lasciano il tempo che trovano, perché la maggior parte sono sbagliate, gonfiate assolutamente. Okay. Un dato concreto dice che sono circa 2 milioni le armi in Italia, l'80% però fucili da caccia, di minor pericolosità. Senta, poi c'è un aumento un po' di vendita di armi nuove, ma per il fatto che il governo ha costretto, richiedendo il certificato medico a tutti coloro che detenevano armi, a versare, buttare via, a svendere una varia di armi un po' vecchie. Ma è vero che ci sono sempre più donne che chiedono il porto d'armi, o per una o per l'altra ragione? Quello non lo so. Diciamo però, perché c'è un aumento della licenza per il tiro a volo? Perché la richiesta della licenza di tiro a volo, che consente l'acquisto di armi, l'acquisto di munizioni e il trasporto di armi senza bisogno di richiedere nuove autorizzazioni, è stato consigliato e raccomandato dallo stesso ministero con una circolare, proprio per evitare che i cittadini andassero a rompere le scatole alle questure per cose modeste. Tu sei già riconosciuto sano di mente, capace di maneggiare le armi, e quindi quando vai al tirassegno portati pure l'arma, quando vai a comprare le munizioni vattene pure a comprare, vuoi cambiare la pistola che sai e prendere un'altra, vai pure senza ulteriore autorizzazione. Dottor Mori, dal ministero. Ma dottor Mori, la paura, l'insicurezza crescente fa crescere la voglia di difendersi da solo oppure no? Cioè, nessuno pensa a difendersi per la strada perché sai che è impossibile portare un'arma. No, certo. C'è la grande esigenza di difendere la propria abitazione, sentirsi sicuri a casa. Senta, una quantità di richieste di gente che chiede come faccio per avere un fucile, una pistola per tenerla in casa. Quello senz'altro è un desiderio molto diffuso, un bisogno molto sentito. Ecco, però la legge italiana è molto severa con chi usa le armi per difendere anche la proprietà privata. Ma diciamo che più che la legge sono i giudici molto severi, molto più severi della legge. La legge interpretata come viene interpretata nel resto d'Europa sarebbe molto più larga. Ho capito. Ecco, perché quindi sono i giudici che danno un'interpretazione restrittiva. Perché sono troppo giuridici e pensano di poter giudicare delle situazioni di stress, di ansia, di concentrazione con le regole del diritto. Certo. Giustamente in Germania, Austria e Svizzera c'è la norma che dice che non è punibile chi ha agito nello stato di agitazione e paura conseguente all'aggressione. E invece da noi no, non no, è guai così. A guardare la psicologia del poveretto che si trova uno di notte in casa e dovrebbe prima aprire il codice e vedere cosa dice la cassatina. Certo. Senta, senta, ma quali sono le armi per chiudere? Quali sono le armi più diffuse in Italia? Non c'è scelta, diciamo, pistola, rivoltelle, fucile sono le uniche consentite. Chiaro che chi è cacciatore già c'è già il fucile in casa, certo, gli viene in mente di prendersi una pistola. Certo. Chi non è abituato al fucile lo considera certe volte più difficile da maneggiare in casa di una piccola pistola e si prende una pistola qualunque. Ho capito. Basta che faccia boom, è più che sufficiente. Insomma, Mario, per avere un'arma in casa c'è questo scamotage della caccia sostanzialmente. Sì, devi dire che vai a sparare ai caprioli. Invece ti armi. Sì, poi se uno entra in casa tua di notte, tu sai, stai dormendo con i tuoi bambini, eccetera, devi dire chi è, scusa. Cosa sta facendo, certo, qui? Detto, poi, eventualmente, se vedi che è un po' minaccioso, gli devi sparare, ma stare attento a non colpirlo proprio fortissimo, non ammazzarlo. Insomma, ecco, tu, Pietrangio, sei d'accordo con il dottor Mori? È interessante proprio della difesa della propria casa, perché questo è un punto. Dice che i giudici sono più severi della legge. È proprio ma una caratteristica italiana. Non c'è dubbio che bisogna tornare alle porte aperte. Cioè, bisognerebbe tornare alle porte aperte, ma per avere le porte aperte in casa, la tranquillità. Fuori non sono tutti legati. È necessario che ci sia lo Stato a garantire la possibilità di tenere aperte le porte, affidarla ai singoli cittadini, alle persone, è dura, è complicata, anche perché molto spesso lo Stato preferisce abbandonare i cittadini e chiudere un occhio altrove. Ma tu, Mario, ce l'hai un'arma in casa o no? Io no, però se fossi in America l'avrei, per esempio. E tu, Pietrangelo, terresti un'arma io in casa? Io faccio fede, credito a un'antica regola teatrale. Cioè? E se c'è una pistola in scena, prima o poi spara. Ma questo sì, però per il posso fare un esempio: c'è il fucile in casa da caccia, infatti, no? Non è che uno ha l'idea di aprire l'armadietto per andare a prenderlo. Cioè, dipende. Quando ero negli Stati Uniti, a un certo punto entravo nelle case e il fucile era sempre esposto sul camino. E un giorno in New Mexico chiesi: ma perché c'hai tutti questi fuciloni? E lo fanno. Coyotes. Coyotes, anche loro vanno a caccia. Coyotes, però quanti morti ci sono. Ridendo ovviamente. Naturalmente, ecco, insomma gli italiani trovano tutti gli escamotage per possedere delle armi, l'abbiamo sentito, ma l'amore degli italiani per le armi è testimoniato soprattutto dal fatto che il nostro paese è tra i maggiori produttori mondiali. La relazione annuale del governo sull'export militare ha segnalato che nel 2015 le autorizzazioni all'esportazione di armamenti sono aumentate del 200%. Pietro Guzzalli Beretta, che è il presidente e amministratore delegato della Beretta Holding, rappresenta la quindicesima generazione dell'omonima dinastia industriale impegnata nella produzione di armi leggere fino dal 1526, un'azienda familiare in un contesto globale. Gli Stati Uniti fino a ieri erano il nostro mercato principale, poi dopo 32 anni il Dipartimento della Difesa americano ha deciso di rinunciare alla Beretta M9. Cosa è successo? È successo che è stata fatta una gara e questa volta ha vinto la SIG, che è un'azienda tedesca con fabbrica in Stati Uniti. Noi abbiamo partecipato alla gara fino in ultimo e però hanno preferito il prodotto della SIG, che è un ottimo prodotto. Ma perdere dopo 32 anni è dura. È dura, ci deve servire da stimolo per fare meglio nei prossimi anni. Senta, dobbiamo concentrarci ancora di più. Essendo una produzione svizzero-tedesca non c'entra il neoprotezionismo di Trump, quindi non c'entra niente. No, non c'entra niente. Il protezionismo di Trump in questa vicenda non c'entra nulla. Si vedrà in futuro. È troppo presto per parlare del protezionismo di Trump. C'entra che avevano un ottimo prodotto e sono stati più bravi di noi. Senta, ma le piace Trump? Guardi, io la politica la seguo veramente soltanto per fare business. Abbiamo fatto business con i repubblicani e con i democratici in questi ultimi 50 anni e credo che i numeri lo dicono, siamo sempre cresciuti. Trump è una novità, non condivido neanche il tiro al piattello, visto che parliamo di armi, che si sta facendo su qualunque cosa che lui dica. Penso che bisogna vedere cosa farà, e a quel punto lì casomai criticheremo. Certo, è stato però così, è stato così anche con Reagan. Senta, in aprile voi avete aperto un nuovo sito produttivo negli Stati Uniti, in Tennessee. Che ne sarà adesso di questo stabilimento che Trump però dice l'America agli americani con lavoratori americani? Va avanti, il progetto va avanti, il mercato americano è enorme, le opportunità per il nostro gruppo sono molto interessanti. Ecco, senta, dottor Beretta, ma come avete fatto a esportare un'esperienza manifatturiera così antica oltreoceano? Abbiamo creduto molto nel nostro prodotto e abbiamo sempre investito per fare meglio nel nostro prodotto. Senta, ma da produttore di armi, pensa che la facilità con cui è possibile procurarsi un'arma negli Stati Uniti garantisce di più la sicurezza o è un rischio in più? Non so se è un rischio in più, è una questione culturale, credo. Sono due culture molto diverse, l'Europa e gli Stati Uniti, quindi non comparabili, credo. Ma in Italia, dopo la stretta sulle licenze per la difesa personale, è un boom di richieste di porto d'armi per la caccia e per uso sportivo. Cosa ne pensa? I numeri non vanno in crescita nel mercato italiano, perché sono dei numeri per noi ormai marginali. Nel fatturato globale l'Italia pesa solo il 5%. Il 5%? E non vedo delle crescite dovute a quanto lei sta dicendo. Quindi non penso che stia cambiando drasticamente il mercato italiano. Senta, ma 5% l'Italia e gli altri paesi, la classifica più o meno, i primi tre quali sono? Forse il primo gli Stati Uniti? Senza alcun dubbio, il numero uno è gli Stati Uniti. E poi direi che l'Inghilterra è molto importante, la Germania è molto importante, l'Australia è molto importante, questi paesi senz'altro sono molto significativi. Senta, la vostra azienda produce anche nei settori di sport e di caccia, appunto. C'è un effettivo aumento della domanda in questo settore? C'è molta richiesta. Faccio presente che tre quarti della nostra produzione è nella parte non difesa. E quindi sì, c'è molta richiesta, ci sono paesi emergenti come la Russia e tutte le ex Unioni Sovietiche che sono dei mercati che stanno diventando interessanti, e quindi la parte sportiva direi che è dominante nella crescita che stiamo affrontando. Ma quali sono i vostri nuovi obiettivi? Cioè i nuovi mercati un po' me l'ha detto, i nuovi obiettivi? I nuovi obiettivi è sempre più cercare, attraverso acquisizioni e attraverso gli investimenti di ricerca e sviluppo, di arrivare a dare sempre più ai nostri clienti, che sono i militari, i poliziotti e i cacciatori, una gamma di prodotti completa che vada dall'arma all'abbigliamento. Senta, dottor Beretta, voi siete stati anche gli artefici del progetto di Cristo sul lago di Iseo, che è stato un successo incredibile. Cosa vi ha convinto a farlo? L'artista ci ha chiesto il permesso di utilizzare questa nostra proprietà per questa opera d'arte. Cristo è stato veramente geniale. Senta, nella vostra azienda ci sono dipendenti che lavorano da 4, addirittura 5 generazioni. Qual è il vostro segreto? Vabbè, che voi siete alla 15ª generazione, quindi insomma. Però di segreti non ce ne sono, guardi. No. L'unica cosa, credo che come famiglia cerchiamo di dare l'esempio anche alle maestranze, essendo tutti i giorni io e mio fratello adesso nelle varie aziende del gruppo presenti e cercando di fare il meglio possibile e vivendo le gioie e le delusioni che negli affari avvengono. Sì. Quindi credo che quello sia il motore principale, l'esempio che diamo anche alle persone che collaborano con noi. Senta, ma l'azienda ha sede tuttora dove avete cominciato nel 1526, quando Mastro Bartolomeo Beretta ha cominciato, è così? Una delle aziende è ancora lì ed è l'azienda principale in territorio italiano. Poi naturalmente negli anni le aziende adesso sono molte e ce n'è una a Urbino, una nel Trentino e le altre sono all'estero. E sono tra gli Stati Uniti, in Europa, in vari paesi, e quindi il gruppo poi si è allargato, però continuiamo a tenere un'azienda con 700 persone dove il nostro nostro antenato ha iniziato. Ah, fantastico. Un'ultima cosa, quanto è il fatturato complessivo del gruppo Beretta? Stiamo chiudendo in questi giorni i dati ultimi, sarà intorno ai 700 milioni di fatturato. Accidenti, con quante persone che lavorano? Con circa 3.000-3.200 persone. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, molti messaggi su questo conflitto fra i magistrati che sono severi e la paura in casa, eccetera, e poi anche le cose spiritose. Laura ci scrive: anch'io ho una beretta in casa, però è un salame, posso usarlo come arma personale. Molto, molto simpatica. Ecco, Mario, il mercato delle armi è una voce importante dell'export? Sì, pochi lo sanno, ma l'Italia è tra i paesi che esportano più armi nel mondo. La classifica è presto fatta: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e noi. Siamo i sesti. Siamo i sesti nel mondo, con tecnologia molto avanzata. Il vero tema è come mantenere quest'industria nostra con il nuovo scenario mondiale. Senti, Pietrangelo, Beretta ha raccontato, l'abbiamo sentito, come la sua azienda ha fatto business in America, per esempio, con tutti, con repubblicani e democratici, sempre così, insomma. È sempre così, se si pensa che, per esempio, giusto per citare la concorrenza, i Kalashnikov dei sovietici usati in Afghanistan sono adesso invece in dotazione ai talebani, e si può anche giocare su un sinonimo, o meglio, su come le armi vengono chiamate nel gergo della malavita, ferro. Il ferro è il metallo, e il metallo insegna la saggezza antica: come denaro non olet, non puzza. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che ci fai sentire? Eccola. E allora, se l'è presa comoda, oggi il sole ha fatto un pisolino di troppo prima di presentarsi in scena. Non fosse stato per i fanali delle automobili che gli ballavano sul muso, avrebbe atteso anche mezzogiorno per tornare poi ancora una volta a letto. Insomma, ha chiamato Apollo, ha chiesto questo brano per Dioniso con un messaggio: li ho persi tutti i giorni per tramontare ancora. Senti, prima della tua bolla, Lorenzo da Palermo scrive una cosa, pone un problema. Dice: l'incostituzionalità del ballottaggio apre un problema serio nella legge elettorale per i sindaci. Perché certo, è una cosa che funzionava, è stata messa in due. Cioè, se hanno annullato il ballottaggio, con i sindaci come fanno? Resta la legge del ballottaggio? Beh, bel tema, no? No, sì, stavo pensando che in linea teorica è così, ma leggendo le motivazioni tu vedrai che ci sarà, Una risposta probabilmente legata alle percentuali che sono state applicate sul premio dell'Italia. La risposta sarà Dire, senza ballottaggio vince la Le Pen di turno, immaginandola in Italia. Sì. Appena capiscono che c'è questo rischio, cambiano di nuovo. No, però dico sui sindaci. Il problema allora. In generale, no, se tu la poni in astratto, è così. Io sono certo che la Corte abbia risolto questo problema. Sì. Va bene, vai con la tua bolla. Allora, andiamo in America. Che novità! Va bene. questa, però è una roba più da divanetto alle 20, ragazzi, vi posso dire. Resta anche con questo sussulto di musica, resta sempre una canzone da fase divanetto e 20 con Martini e Oliva, però va bene, comunque no, sono cose da vecchi tempi. E Giovanni, tu dici strano, vai in America, andiamo in America, no, perché, perché in realtà è l'epicentro di un grande cambiamento, certo, in corso. E devo dire, appunto, siccome Trump viene preso a sassate qualsiasi cosa faccia, anzi a tiro al piattello, ha detto giustamente, a piattellate, ha detto Beretta, allora forse è il caso anche di dare insomma una visione un po' più, non dico obiettiva, ma quantomeno un punto di vista diverso. E il mondo corre, siamo alla vigilia di un appuntamento molto importante che avverrà domani. Theresa May incontrerà Trump alla Casa Bianca. Certo. Ricordo a tutti che è la prima visita ufficiale di un capo di Stato a Washington. Vabbè, rinasce l'anglosfera. Esatto. Questo ha delle conseguenze, secondo me, devastanti per il futuro dell'Unione Europea. Certo. È veramente un gioco del cavallo. Sapete tutti che sugli scacchi il cavallo salta tutti gli altri pezzi. Quindi in questo caso attenzione, perché gli inglesi si stanno muovendo con grande rapidità, hanno trovato con Trump l'exit alla Brexit, però, quindi è da seguire con attenzione. Però la May c'ha il Parlamento che dice, beh, insomma devi passare di qua. Sì. Ci mettono solo un po' più di tempo, però, dici, Giovanni. Vabbè, sì. Io voglio vederlo, il Parlamento inglese, che dice no al popolo. Che dice no al popolo. Sarebbe clamoroso e non, certo, accadrà. E non accadrà. Vai col Salamino, Pietrangelo. Quello che c'era impera. Giovanni, a Rai 3 trionfa il cosiddetto vintage. Ah. E certo, perché dopo la tragedia di Politics, con la X se non ricordo bene, la trasmissione, la ricorderete tutti, la trasmissione fighetta del povero Semprini, il vetusto marchio di Agorà riesce a battere Di Martedì di Giovanni Floris. Davvero. Cioè quello che c'era impera. E domanda chi? Che ci domandiamo? Chi c'era? Questo paese se la cava sempre. Forza Belgio. E che Agorà lo racconterà con questo signore qua, che viene qua vicino a me. Lo conoscete bene perché ha raccontato gli Stati Uniti d'America all'Italia per tanti anni, è Gerardo Greco, diventa lui il conduttore di Agorà. Per me finisce una grande avventura di conduzione, ma inizia a tempo pieno l'avventura strepitosa di fare il direttore di Rai 3. Le due cose sono incompatibili. Da lunedì c'è Gerry Greco, un numero uno. Poi mi viene da piangere. Una voce da uomo questa. Una voce da uomo. Non da donna. No, appunto, perché poi fu incompatibile secondo il nuovo corso lui, perché c'era quello che prima c'era di Gerardo Greco. Chi c'era? C'era Andrea Vianello, appunto, l'ideatore di Agorà. E allora Ricotta. Ed era il direttore della terza rete Rai, custode dei vecchi successi, a cominciare da Gazebo, sia pure zeccoso Gazebo, e però molto, di felice esito. Super zeccoso. E così anche era Andrea Vianello, attento alchimista in sinergia col TG3. Chi era il TG3 prima? Chi c'era? C'era Bianca Berlinguer, che però è stata costretta al pomeriggio, dove però costruisce oggi un grande successo di ascolti, essendo lei, in quel che già c'era, l'imperatrice che ancora e tuttora impera. In un pomeriggio dove, diciamolo, anche Sveva Sagramola con Geo and Geo da vent'anni vince. Un ventennio come il Duce, insomma, quello che c'era impera, e conferma appunto il suo dominio indiscusso post-prandiale, perché è la regola delle regole, solo ciò che è vecchio e nuovo. E tutto lo sforzo di Antonio Campo nell'orto, quello di pensarne di nuove per non dare ragione al vecchio, gli si ritorce contro. Allora, ha chiuso in una stanzetta angusta Andrea Vianello, l'ha degradato al rango di ex per fare largo al Birignao dell'attuale direttore, anzi direttora Daria Bignardi, ma ciò che vince arriva solo dall'usato sicuro. E i politics, non so se con la X o senza X, cioè, insomma, tutti questi esperimenti di nuovismo chic sono già rottamati, anzi sono già disastrati. E per dirla col vecchio slogan Rai di tutto di più, no, è Rai il tutto mai più. Insomma, chisto è... Sono le stagioni. Un bel editoriale. Editorialino televisivo leggermente puntuto. No, però, no, però, infatti, infatti, cosa, vai con la bolla. Oh, questo va già meglio. Sono le Zeppelin, sentiamo. Anche se ti devo dire la verità, dico Alessandro in regia, ti posso dire che You Shook Me delle Zeppelin è perfetto dopo le 23, perché ha questo movimento ondulatorio, sentilo. Allora, andiamo ancora in America, Giovanni, perché ieri è successa una cosa molto interessante che... tranne il Sole 24 Ore e pochi altri, non ha ricevuto la grande attenzione, ma non mi stupisce, sui giornali. Il Dow Jones, che è l'indice industriale, ha 120 anni di storia, l'indice Dow Jones, ha toccato il record storico dei 20.000 punti. Sempre per la cronaca, sempre per stare sui fatti, Trump dall'Election Day a oggi, anzi a ieri, poi vedremo oggi cosa fa la Wall Street col mercato, comunque dall'Election Day, quindi dall'8 novembre a oggi, ha messo a segno il rally di borsa più importante della storia dei presidenti americani, preceduto solo da Kennedy nei primi anni 60. Sarebbe bello leggere tutte queste cose, diciamo, oltre al muro. Oltre al muro. Ci faccio notare, così sempre per stare ai fatti, che il muro non è un'invenzione di Trump. Assolutamente. L'ha inventato nel 1994, l'ha cominciato a costruire nel 1994 Bill Clinton, democratico. Nel 2006 è stato votato il Secure Fence Act da George Bush, votato da 25 senatori democratici, tra i quali c'erano due sconosciuti favorevoli che hanno votato appunto sì, che si chiamano Hillary Clinton e Barack Obama. Okay. Sarebbe bello, sarebbe bello leggere tutto questo. Grazie. Canzoniere. Quando che nonna mia pigliò marito, non fece mica come tante tante che dopo un po' se trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. 800 24 00 24 349 238 6666. L'SMS mi sono paralizzato perché era una frase forte. Sentiamo se ci chiamano. Viabilità. Mix 24. Dal novembre del 42 un corriere polacco di nome Jan Karski gira mezzo mondo con in mano una relazione, documenti che testimoniano l'esistenza della Shoah. La relazione Karski arriva in mano a numerosi capi di Stato. Poi iniziai a fare i miei rapporti, prima di tutto ai leader polacchi, cioè del governo polacco. Si trattava di leader di partiti politici, il primo ministro generale Sikorski ed altri. Poi iniziai nel mese di gennaio il mio lavoro con i funzionari americani e inglesi. Se mai succedeva che cominciassero una discussione, uno scambio di idee, di solito l'argomento era: si è giunti alla conclusione ai più alti livelli, cioè da parte di Roosevelt, Churchill e Stalin, che la strategia globale di questa guerra è la sconfitta militare della Germania, cioè la distruzione del potenziale bellico industriale della Germania. Nessun altro problema secondario deve interferire. La questione, quindi, stava in questi termini. La tragedia degli ebrei, così dolorosa e imbarazzante, per loro era un problema secondario. Un problema secondario quello dell'olocausto per i capi di Stato, secondo quanto dice Karski, ma la sua relazione diventa un'importante testimonianza sulle responsabilità ed è la prova che molti, tutti, sapevano. Sapevano la Chiesa, gli organismi internazionali, i leader del governo polacco, alti funzionari americani e inglesi, leader ebraici. Perché non si intervenne resta il grande interrogativo della storia. Dunque, questa puntata è molto interessante perché con testimoni diretti si racconta chi sapeva dell'Olocausto, cioè tutti. Ne parliamo dopo il giornale radio per i gialli della storia. C'hai un aggiornamento, Mario? Sì, no, mi veniva in mente su questa cosa che stavi presentando, su questa puntata, che sto leggendo un libro di Max Hastings sulla storia della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono un paio di pagine iniziali proprio su questo, su come non fu lasciato da parte, esatto, volutamente. Fu messo ai margini in quel momento. Sì, no, ho un aggiornamento, viene da Donald, dal presidente, nostro amico. Al quale hanno chiesto: ma com'è che lei limita l'ingresso dei profughi, dei rifugiati o comunque degli stranieri dei paesi islamici? La sua risposta, devo dire, è stata molto chiara, comprensibile dall'elettore medio americano, è stata: il mondo è un totale casino, per cui io sono obbligato a fare questo. Cioè, cerca di rimettere ordine, questa è... Sì. Quindi vedremo dopo l'incontro con Putin quale sarà l'ordine mondiale che loro nuovo discuteranno. Che farà? Non vediamo. Va bene. E per finire, intanto sentiamo cosa ci propone Gloria Guerriera oggi per chiudere la puntata. Oggi, a 50 anni dalla scomparsa, voglio ricordare un cantautore da me amatissimo con questa canzone fatta di occasioni mancate. È Luigi Tenco con Io sì. Io sì. Che t'avrei fatto vivere una vita di sogni che con lui non puoi vivere, io sì. Avrei fatto sparire dai tuoi occhi la noia che lui non sa vedere, ma ormai... Io sì, t'avrei detto il mio amore cercando le parole che lui non sa trovare. Io sì, t'avrei fatta invidiare dalle stesse tue amiche che di lui ora ridono. Ma ormai... Avrei fatto arrossire dicendoti ti amo come lui non sa dire. Io sì, da te avrei voluto quella tua voce calda che a lui fa paura. Ma